Se un'operazione contiene l'operatore OR, cioè oppure, è vera se almeno una delle condizioni è vera. Sapendo che la condizione A è vera e la condizione B è falsa, A OR B sarà vero o falso.